Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno. Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft. Svela un mistero celato da eoni tra i ghiacci del tempo. Affronta l'incubo. Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness. Dal 23 marzo su Steam. Approfitta dello sconto del 10% al lancio. Stai ascoltando Runtime Radio. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti ancora una volta, come tutti quanti giovedì che si rispettino, qua su Runtime Radio, su Quando eravamo futuro, questa trasmissione che faccio insieme ai miei allegri compagni tipo Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, sono qui anche stasera, incredibile ma vero. Ma pensa un po', c'è anche Davide Gatti. Eccomi qua, buonasera, seduto su una sedia che fa dei rumori che potrebbero sembrare molesti. Potrebbero sembrare altro, ma è musica elettronica anche quella. Esatto, sappiate che sono effetti voluti. Di ritorno da una lunga trasferta, quasi un esilio, Roberto Tomaiuolo. Che non parla più. Grazie Simone, buonasera. Troppo una breve trasferta per poi ritornare in esilio, però buonasera a tutti. Vabbè, bisogna sapersi accontentare nella vita, questa è una cosa importante che abbiamo imparato. Allora ragazzi, andate, benvenuti, quindi quelli che verranno in chat, fra un po' vado a controllare, cerco di controllare tutto. Stasera sono un po' in una condizione un po' precaria, stiamo utilizzando i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione. Voglio ringraziare immediatamente, voi sapete, noi chi fa le patreonate, chi fa il PayPal, roba del genere, e sostiene Runtime Radio, io non lo ringrazio mai direttamente. Uno, perché la lista è sempre abbastanza ampia, e due, perché rischio sempre di dimenticarmi qualcuno. Però chiaramente non posso non ringraziare Arturino Mazzei, perché ci ha messo a disposizione molta strumentazione, devo dire grazie, perché grazie a questo che miglioreremo sempre di più nei prossimi mesi. Voglio anche precisare che, come avete notato chi segue i nostri gruppi Telegram, questa mattina c'è stata insomma un po' di bagarre, perché è stato annunciato il triste fallimento di Runtime Radio per motivi legali. Chiaramente era uno scherzo, ma uno scherzo di cui io mi sono sentito in colpa già nel momento in cui l'ho fatto, perché sono fatto così. So che diciamo molta gente in questo anno in particolare si è molto legata a quello che abbiamo fatto e alla nostra presenza, e probabilmente per qualcuno che magari non aveva capito che era uno scherzo, veramente gli abbiamo creato un dispiacere. A me mi dispiace questa cosa, devo dire, un po' mi dispiace, però noi non l'abbiamo mai fatto negli anni, Carlo lo sa, insomma tutti quelli che non abbiamo mai fatto lo scherzo del pesce d'aprile, una volta nella vita l'abbiamo voluto fare pure noi, insomma, quindi va bene così. È uscito troppo bene, sì, la gente ci ha veramente veramente creduto. Non è tanto solo per Runtime, ma ho visto che ci sono cascati dati. È stato un anno dove tutti pensavano che questa cosa del primo aprile non esistesse più, invece è ritornata, ci sono cascati in tanti, su tante cose, eh. Sì. Intanto salutiamo Girasole in chat. Girasole che è sempre presente. Salutiamo Girasole, che è oramai un mantra di Runtime Radio. Quindi anche voi, pur non conoscendola, dovete dire salutiamo Girasole. Quindi salutiamo il Girasole. Perfetto. Ciao Girasole. Bene, di questa sera, questa è la puntata di Davide Gatti, ragazzi. È la puntata nella quale io mi divertirò molto, perché ascolterò tanto e guaierò poco, ogni tanto dirò le mie cazzate come al solito, però insomma non sono proprio ferratissimo sul tema, e la prossima settimana tocca a me, quindi insomma sappiatelo. Davide, questa sera parliamo di musica, ma prevalentemente di musica elettronica, anche legata un po' a quelle che sono le sperimentazioni, le tecnologie i sound che si utilizzavano negli anni 70 e 80 che insomma ancora oggi spiccano. Direi di sì. Che sono cominciati ad apparire in quegli anni, grazie appunto alla tecnologia ovviamente, e che ogni volta che la tecnologia si presenta, in qualsiasi forma, nella musica viene in qualche modo sempre utilizzata. E in quell'epoca c'era l'elettronica e da lì è cominciata a venire fuori ed è stata sfruttata da chi ha voluto sperimentare o chi ha voluto fare qualcosa. E se vogliamo iniziare, avete qualcos'altro da dire voi? Comunque, se vogliamo iniziare, la prima domanda è: che cos'è la musica elettronica in pratica, no? E qualcuno la definisce come quella musica realizzata utilizzando gli strumenti musicali elettronici, no? Però, e fino a qua la definizione fino a qua sembrerebbe semplice. Salutiamo, no? Ruggio81 però, in chat, scusate, vai. Però è una definizione un po' così troppo generalista, perché in realtà da un certo momento in poi, e non vorrei dire dagli anni 70 in poi, ma almeno dagli anni 80 in poi, sostanzialmente la musica è tutta stata fatta con, fondamentalmente con strumenti elettronici, quindi sarebbe tutta musica elettronica, in particolare oggi praticamente qualsiasi canzone o qualsiasi brano musicale è fatta con strumenti elettronici, sia dal punto di vista strumentale sia dal punto di vista di post-produzione, e quindi sarebbe tutta musica elettronica, ma in realtà quindi non va generalizzato proprio così. Mentre invece, diciamo, la musica elettronica si intende quella dove il suono elettronico è dominante rispetto a quello che è magari il resto degli strumenti, e dove si sentono delle sonorità che difficilmente sono riproducibili da strumenti tradizionali, classici, e che quindi, se vogliamo proprio sapere, diciamo, non sapere, vogliamo descrivere la musica elettronica, dobbiamo pensare a quella musica che magari ha più sonorità particolari, con suoni appunto che in natura non sono ritrovabili, quindi suona molto innovativa, molto particolare, molto diversa dal solito. Questo parliamo negli anni 70, ormai oggi siamo tutti abituati a sentire suoni strani, cose strane, e non ci stupiamo più. Però negli anni 70 la gente era abituata a sentire le chitarre, la batteria, i violini, i sassofoni, i fiati. Cioè, questo vorrebbe dire, secondo questa tua tesi, praticamente vorresti dire che insomma tutto il sound design legato ai film De Pierino non era fatto con la musica elettronica. Era fatto con i suoni naturali, insomma. Sì, ma musica di Pierino mi coglio poi preparato, perché non è che siamo Alvaro Vitali, dai. Sì, lo so, però io quei film lì li vedevo poco. Comunque, vabbè, sì, sicuramente c'era anche lì tutto questo genere di cose. E niente, quindi in realtà, diciamo, se volessimo proprio racchiudere la musica elettronica, definiamola come quel genere dove si sentono delle sonorità atipiche, se vogliamo. Semplifichiamola così, poi il concetto sarebbe molto più complesso, ovviamente. E già negli anni 70 si cominciava a parlare di musica elettronica, ma anche negli anni 60 esisteva della musica elettronica in realtà, però diciamo, più negli anni 70 è cominciato a emergere questa musica, con dei gruppi abbastanza noti tipo Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, con Keith Emerson che ha cominciato a portare live i sintetizzatori, quindi la gente ha cominciato anche a vedere che cosa faceva questi suoni. Perché fino all'epoca si sentiva solo parlare di ma suonano con dei robi, dei cosi elettronici, chissà che cosa si immaginavano fossero, e poi quando li portavano live questi strumenti in effetti erano dei mostri, comunque, perché se andate a vedere qualche foto di Keith Emerson degli anni 70 noterete che il sintetizzatore che sta suonando è probabilmente tipo un armadio con 100.000 manopole, da fantascienza, veramente da film. Anzi, mi viene in mente proprio adesso il film, qual era quel film con porca miseria, con quel tizio sfigurato, non mi viene il titolo, che suonava con tutti questi strumenti qua, fine degli anni 70, comunque non mi viene in mente, comunque vabbè, Maggie Nightmare, no 70, non è Nightmare, è l'80, vabbè, ma era quel, non c'entrava niente, uguale. No, era uno sfigurato che suonava dietro, sempre, non si vedeva mai. Vabbè, comunque, niente, lasciamo stare un attimo questa roba che poi dopo mi viene in mente. Comunque, queste persone furono sfigurato, ovviamente, il fantasma del Louvre, ma non penso. No, è sempre il fantasma di qualcosa, però è orientato negli anni 70, che lui è stato sfigurato, mi sembra, sotto la pressa di un disco, di una pressa che stampava i dischi di vinile, se non ricordo male. Vabbè, adesso non me lo ricordo il titolo, dopo mi verrà. Comunque, questi gruppi erano precursori di questo tipo di suoni, che hanno gettato poi le basi di quello che era le sonorità che poi dopo si sono evolute e che hanno cominciato a diffondersi. E ora vi faccio una domanda a tutti e quattro, tutti e tre, me la faccio anch'io comunque questa domanda. Secondo voi qual è il gruppo o il musicista o quello che vi fa vedere che voi definireste come quello che ha inventato la musica elettronica, quello che per voi è la musica elettronica, da dove proviene? Ognuno di noi ovviamente è di un periodo diverso e avrà la sua idea. E sarei contento, vediamo cosa è. Chi è che inizia? Inizia tu, dai. Tu sei più giovane, giusto? No, siamo coetanei, io e Roberto. Più giovane è Simone. Io l'ho scritto nel documento, però anche senza che l'avessi scritto tu me lo ricordavo, nel senso che io la prima musica che io ho considerato, non me ne intendo abbastanza per raccontare la storia della musica elettronica, ovviamente non l'ho mai studiata, ma personalmente quello che io mi ricordo come primo disco che ho considerato di musica elettronica è stato Popcorn. Mi ricordo che da piccolino avevo questo 45 giri con scritto sopra Popcorn, che lo mettevo nel mangiadischi e suonava questa musica che non era cantata e non era fatta con nessun strumento tradizionale, pianoforte o tromba o chitarra, e si sentiva questo come il Popcorn che scoppiava. L'ho ascoltata da piccolo fino alla nausea, mi piaceva tantissimo. Sì, la conosciamo tutti sta canzone, direi. Il film era Il fantasma del palcoscenico. Il fantasma del palcoscenico. È vero, in effetti ci avrei dovuto pensare che era quello, in effetti. E se guardate le scene, c'è dietro, quando è nello studio, ha delle strumentazioni paurose, sì, sì. Alla Keith Emerson. Film assurdo. Io comunque considero questo Popcorn, ma effettivamente, a parte il fatto che sia famosa e che faccia tutti, non so né chi l'ha composta, né quando, né perché, né per come. Come fatti ma tutti. Nel mio ricordo è la prima che mi ricordo, a mia conoscenza, insomma. Esatto. E Roberto, invece, tu cosa ti ricordi come canzone, la prima quella che definisci, chi ha inventato la musica elettronica? Allora, io te ne dico addirittura due, che chiaramente non è una cosa accurata storicamente, però è perché parliamo di ricordi. Certo, io amo molto i Kraftwerk, che sono senz'altro stati fra i primissimi gruppi che hanno sperimentato questo genere di musica, e come poi ne parliamo magari dopo, hanno anche ispirato molti gruppi che sono venuti dopo e stili che sono venuti dopo. E di loro ce ne sono tantissime, quella che amo di più è Trans Europa Express, alla tedesca, non la versione inglese che non mi piace. Però fammi citare anche, che tra l'altro non c'è, ce l'abbiamo, la mettiamo se vuoi. Dopo viene. Io voglio citare Franco Battiato, mi perdonerete, grande. E Fetus del 1971, comunque è un disco sperimentale che comincia fra i primissimi davvero a utilizzare queste tecnologie. Beh, su questo mi associo, perché in effetti nella puntata, l'ultima puntata che abbiamo fatto di Mono, sui vinili che ci ricordiamo della nostra infanzia, io ho scelto proprio Franco Battiato, perché Franco Battiato dal 72 al 78 tipo ha fatto praticamente quasi prevalentemente musica elettronica e musica sperimentale, e ha fatto dei dischi della Madonna, e io lo so perché alcuni di questi dischi mio padre ce li aveva, assurdo a dirlo oggi, ma è così. Quindi anche per te, Simone, diciamo Battiato, o hai qualche altra idea? Sì, no, Battiato, e poi ricordo che tramite un mio amico ascoltavo Falco. Chiaro, no, quello degli anni 80, infatti, però è già anni 80. Ma io comunque sono del 72, ho iniziato a sentire la musica, insomma, intorno agli anni 80, quindi a parte i dischi esatto, a parte i dischi diciamo che c'aveva mio padre, che poi ho recuperato per conto mio, però in generale comunque se non fosse stato per quello che era già a casa mia non avrei potuto esplorare così facilmente gli anni 70, insomma, da questo punto di vista. Per, per completezza di informazione, chiaramente Popcorn era di Vangelis. No, erano gli Hot Butter, almeno come gruppo, che io sappia. Poi dopo che di chi fosse non lo so. Magari era Vangelis in un suo nomignolo così. Io so che era gli Hot Butter come gruppo musicale, però di fatto non c'era un figurante, non c'era una faccia, non si sapeva chi fossero sti qua. Però può ecco anche essere. Mentre invece per quello che riguarda, perché Vangelis è uno di quelli che ha portato poi, cioè, la musica elettronica anche nel cinema, no? A parte, vabbè, in generale non è stato l'unico, sì, anzi. Sì, ce ne sono diverse versioni. Confermo. Io sapevo quella che più nota, ce n'erano tante versioni, e la più vecchia era di uno che poi in realtà non è stata quella che poi è diventata famosa dopo. Mi sembra di aver letto da qualche parte. Sì, non è che ne sapessimo. Non so molto di sto brano, anche io sapevo sti Hot Butter, che casualmente vuol dire burro fuso, che serve per fare i popcorn, niente di fare una fantasia micidiale. Beh, invece per quanto mi riguarda, probabilmente perché sono di un altro periodo, a casa mia si ascoltava un certo tipo di musica. Quello che mi è rimasto impresso tantissimo e che ce l'ho ancora impresso adesso è quello che si chiama Il Guardiano del Faro, non so se vi lo ricordate. Il Guardiano del Faro, che questa sua canzone... adesso che la canticchi mi viene in mente, sì. Ecco, quella lì era fatta tutto con il sintetizzatore, con anche sotto qualche strumento tradizionale, però di base... era famoso e partecipava a tante trasmissioni che in TV si vedevano ancora in bianco e nero, che arrivava con la sua valigetta, con il sintetizzatore, suonava e sembrava che facesse delle magie con sto coso. Io c'ho in mente questo, poi anch'io Popcorn, che era chiaramente una musica tipica per bambini e ragazzini. Poi vabbè, io c'ho un Giorgio Moroder, perché comunque lui ha iniziato a fare musica commerciale negli anni 80 e comunque ha iniziato molto prima, e però con brani molto meno famosi, che però io avevo un fratello che ne so, era cultore di Giorgio Moroder, aveva tutti i dischi, anche roba fatta in italiano negli anni 60 quasi, che nessuno... Ma infatti Ruggio in chat dice che generalmente la musica completamente elettronica viene fatta risalire a Giorgio Moroder e I Feel Love di Donna Summer. Questo. Sì, però lì già era disco music con ovviamente il suo impatto elettronico, che ha cominciato poi lui a creare questo genere che poi si è protratto. Posso una domanda, Davide? Sì, sì. Ma quello strumento lì, quello che si fa con le mani senza toccarlo, come si chiama? Quello fa... Si chiama theremin. Il theremin. Come si chiama? Ma questo mo cacciare. Ma la... È considerata musica elettronica quella? O è considerata no? Musica elettronica, però è nato in un'epoca molto molto indietro nel tempo. Si parla di quello anni... mi ricordo filmati vecchissimi che ne usavano. Sì, anni 40, anni 30 probabilmente, 30, se non mi ricordo, esatto, le date, dove era uno strumento che ha avuto una sua evoluzione, ma alla fine andava a finire nelle orchestre, come fosse un violino, cioè veniva utilizzato. Però era già elettronico alla fine. Cioè sì, è stato il primo strumento musicale elettronico, era fatto con le valvole, era un oscillatore controllato in oscilloscopio, battimento di frequenza. E c'era anche nella sigla di Star Trek. Che non è vero, però, che era il theremin per davvero. No? Non si sa. Cioè, sembra di sì. Si è sempre sostenuto questo, ma in realtà, da varie fonti che si leggono in giro, in realtà non è mai stato usato il theremin veramente per la sigla di Star Trek. Insomma, però è... Sì, perché comunque è uno strumento molto complesso da suonare, veramente complicato, perché non hai riferimenti, non hai niente. Cioè, per decidere la nota devi spostare la mano leggermente verso un'antenna, solo che non hai i tab, non hai niente, cioè devi andare a memoria tra virgolette, ed è complicatissimo. Allora, per fare una produzione con un brano con una roba del genere, si fa prima farlo con la tastiera, poi puoi anche raccontare che l'hai fatto col theremin, però usi una tastiera. Sì, infatti è quello. Comunque salutiamo Michela in chat, scusa, e poi giustamente Ruggio ci dice che il theremin viene fatto risalire da Wikipedia al 1919. Sì, da un russo, mi sembra. Comunque, prima di far sentire il brano, volevo solo appunto ricordare che, a proposito di Theremin, è uscito un video di Survival Hacking esattamente settimana scorsa. E dopo proprio fatto vedere la realizzazione di un Theremin. Guarda così, un po', guarda un po', è vero, ha ragione, ha ragione. E io adesso passerei a far sentire appunto quello che sono i Kraftwerk, secondo me, di cui dopo parleremo un attimino, che sono comunque, dopo i nostri ricordi così molto degli albori, nel collettivo direi quasi mondiale, se chiedessimo a tutto il popolo del mondo, penso che più del 50% direbbero i Kraftwerk come veri quelli che hanno introdotto veramente in modo massiccio l'elettronica nella musica, sia a livello sperimentale e successivamente a livello commerciale. E difatti tutti i gruppi, quando ne parlano, se voi vedete delle interviste dei Depeche Mode, di chi volete, anche loro, prima di dire qualsiasi cosa, dicono che loro hanno sempre preso spunto dai Kraftwerk alla fine. Quindi sono quasi per definizione la base della musica elettronica dagli anni 70. Loro hanno iniziato prestissimo, tra l'altro, hanno iniziato veramente negli anni 70 con strumenti che si costruivano loro, perché non esistevano tanti strumenti musicali, fino ad arrivare ancora ai giorni nostri. Io direi di sentire comunque il brano di The Kraftwerk, che è poi il brano che ha selezionato Roberto, nella versione tedesca di Trans Europe Express, che è probabilmente la migliore tra tutte quelle che hanno fatto di quel brano. Ok, ce ne ascoltiamo un pezzetto come facciamo di solito, poi magari rientrando sul pezzo, magari se Roberto c'ha da aggiungere qualcosa, lo fa tranquillamente, insomma, intanto ce l'ascoltiamo. Io direi che in buona sostanza la mettiamo tipo in sottofondo, ce la portiamo così, che ci accompagna un po', e che poi questa, io penso all'inizio, cioè questa è la roba meno radiofonica del mondo, eppure io l'ascolterei per ore, cioè nel senso, cioè proprio sì, io no, è ipnotica. Pensa che non è stato utilizzato nessuno strumento tradizionale per fare questo brano, ed è, non so di che anno è Trans Europe Express, non mi ricordo, 70, ma è uno dei primi, sarà 76, una roba così, sì. Comunque tutta roba, e c'era già il vocoder, che in quegli anni forse non so se lo sono costruiti loro, non so, perché nessun produttore aveva ancora fatto i vocoder, secondo me, in quegli anni. Comunque, per gli appassionati, io consiglio davvero di sentire le varie versioni. E io di recente, qualche anno fa, ho comprato un vinile che hanno rifatto con una versione in inglese rimasterizzata più lunga, che è veramente bello, sia il vinile in sé con il logo della TEE sopra, che hanno, e anche il video è molto bello, quindi è una cosa che davvero vale la pena di ascoltare. Anche questa dura 6 minuti, quindi insomma. Beh, quella remixata ne dura 11, quindi è quella ancora meno radiofonica. Esatto, diventa un po' pesante. Ci sono delle versioni dove c'è un disco mix intero dove c'è solo questo brano, allora facciamo di quelle robe anche lunghissime, magari sempre così. Comunque, Carlo, ti confermo che la sigla di Star Trek, la serie classica, è stata cantata da una soprano che simula il suono del Theremin, quindi ma questa cosa questa cosa la sapevo, in effetti, che comunque è una voce, non è un, ma in realtà, se la senti bene, si sente, perché comunque sì, quella pare che sia un soprano. Autobahn, Man Machine, ce n'è tantissime di canzoni bellissime. Posso dire una cosa però, Davide? Allora, i Kraftwerk erano famosissimi soprattutto, vabbè, fra chi si occupava, si appassionati di musica elettronica, e fra tutti i gruppi che, come giustamente hai detto, li considerano capostipite. La house, alcuni la considerano nascere come una prosecuzione del lavoro dei Kraftwerk, tanto per dirne una. Però in realtà questo è il famoso kraut rock, che era un po', come posso dire, schifato, se non voglio usare questa parola, però non in tutti i paesi il grosso pubblico andava dietro a questi, perché erano tedeschi, questa è la verità, che è una scemenza immane, perché sono dei grandissimi artisti, cioè... Sì, ma anch'io negli anni 70 questo tipo di musica, quando l'ho sentita la prima volta, non è che mi entusiasmasse il massimo, soprattutto questo brano, no? Successivamente li ho apprezzati. Tu pensa che fino agli anni 80 io avevo solo uno o due dischi dei Kraftwerk, Electric Café e forse The Man Machine, ma non è Machine. E poi... Radioactivity magari, sai, quelli lì. Sì, però non era tra i miei preferiti. Poi a un certo punto discografia completa e certo. Adesso ho comprato anche un cofanettone grosso così, che ho detto tutti i Blu-ray, DVD, preti, vinili, ho speso un patrimonio. Come si chiama? Robot? iRobot? No, si chiama 3D. No, no, la canzone sui robot dei Kraftwerk. Sì, Yard the Robot. Quella è quella che conoscono commercialmente tutti, perché sì, infatti io conosco, io sono arrivato in quel periodo lì, prima non li conoscevo. Quella è la canzone che è molto, è la meno sperimentale di tutte, ed è quella dove sono entrati a livello commerciale praticamente, come quasi tutti i brani nell'album Electric Café, che era abbastanza tale. Passerei un po' la musica, scusa, hai ragione, infatti non mi ero accorto che era un po' salita The Swan, insomma, scusa. Ci hanno sentito i Kraftwerk, si sono... Esatto. Sì, infatti c'è Klaus, salutiamo Klaus Schulze, che di recente ha perso il suo fondatore, morto l'anno scorso mi pare. Io penso che avevo già i biglietti del concerto, che è stato rimandato a causa Covid, è ancora rimandato, e ho visto praticamente tutti i concerti italiani dei Kraftwerk, io. Così. Invidia, non ci sono mai andato e... Io invece li ho visti, pensa un po'. E li ho visti non perché sono il mio gruppo preferito, perché comunque erano da vedere per forza, cioè non si poteva non vedere. E avrei visto anche il concerto di marzo scorso, che è stato sospeso. Comunque sì, c'è John Carpenter che ci dice che pure io sotto sotto ci ho dato. Ma John Carpenter chi? Il regista? Immagino di sì. Chiediamoglielo. Ci ha dato in che senso? Beh, lui ha fatto anche molte musiche, Fuga da New York, Essi Vivono. Tutte zozzerie, cioè, è vero. Ha ragione il John Carpenter a dirci questa cosa. ha ragione, lui lo sa. E lui lo sa, se non lo sa lui. Musica, come dire, sincopata, correggimi se dico stupidaggini, ma musica sincopata fatta, se non ricordo male, lui cominciò a fare musica perché non aveva i soldi per pagare un musicista, allora cominciò lui e con un ottimo successo, tipo sia Fuga da New York, ma a me per esempio Essi Vivono piace da morire, sia il film che la colonna sonora è fantastica, quindi sì, ottima citazione. Esatto. E niente, comunque parlando sempre dei Kraftwerk, adesso abbiamo già più o meno detto tutto quello che era in scaletta, tutti i vari album. Ma quelli che si vestivano tutti d'argento, erano i Rockets. A Wonder All The Gay, che cantavano con il vocoder. Quelli di elettronico facevano poco, perché erano in realtà facevano rock. L'unica cosa è che cantavano col vocoder, che sembrava quindi molto elettronico, no? Perché la voce robotica così dava quel senso di elettronico. Poi in realtà suonavano le chitarre, la batteria, non erano molto elettronici come gruppo. Mi però... ricordo anche un altro gruppo, aspetta, come si chiamava? Che facevano il disco col treno, che era Disco Moscow. Sì, non quello mi ricordo il nome del gruppo. Aspetta, che ne cerco io, però comunque mi ricordo. Ah, Telex Moscow, Disco quello lì, Moscow. Vabbè, quello era un po'. Siamo già negli anni 80 avanzati, nella quasi italo disco. Anche se quella era... mi sembrava più vecchio degli anni 80. Più vecchio, però... non lo so, secondo me siamo già negli anni 80, così a naso. Forse no, sono lì al limite, comunque mi sa. Come curiosità, Kraftwerk vuol dire centrale elettrica, comunque tradotto in italiano, così. Perché voi dici, cazzo, bel nome Kraftwerk, se lo sono inventati, no, invece semplicemente centrale elettrica. Quindi in Germania quel gruppo è quelli della centrale elettrica. Quindi Grafen che significa? Grafen, non lo so, Boni, sarà Grafen. Centrale, sarà buco disco, centrale. Disco Mosco del 78, però... Comunque Carpenter invece... ci tiene a dirci che in realtà le musiche le ha fatte quasi tutte 79, lui in generale, quindi... E Lobby, che salutiamo in chat, ci dice che Elio nel 96 si hanno, cioè, vabbè, Elio e Storiedese a Sanremo si sono presentati vestiti da Rockets, quindi... mi ricordo tutte quando l'anno in cui dovevano vincere, quello l'anno di la terra dei cachi. Sì, esatto, che hanno vinto comunque, per quanto mi riguarda. Se devo dire la verità, che poi in realtà diciamo lo Sanremo lo vince chi decide noi, cioè nel senso, diciamo che nel cuore hanno vinto loro, poi dopo a livello di classifica non hanno vinto, ma chi se ne frega. Infatti Simo, riesci a mettere al volo, se vai su Telegram, non so se è fattibile tecnicamente, qualche nota? Sì, mi devi dare il tempo. Cosa? Vabbè, intanto noi intratteniamo. Certo. Ma di che cosa? Sorpresa, tu sei curioso? Oggi poi è un giorno particolare, come sai. I nostri ascoltatori non so se hanno letto i metadati che ha messo Simone. No, secondo me non se ne sono accorti. Cioè, e se tu glielo dici... i tag, quelli tagliati in due, i metatag. I metatag, esatto. Secondo me non se ne sono accorti, ma se glielo diciamo non c'è gusto, no? Esatto, comunque mentre voi cercate tecnicamente di sistemare, volevo appunto solo accentuare il fatto che Kraftwerk, comunque, che io ho apprezzato, perché quando nei dischi di vinile all'interno c'erano quasi sempre delle fotografie in bianco e nero, spesso, dove si vedevano loro con in mano degli strumenti, ed era sempre bestiale vedere che quegli strumenti non esistevano in giro da nessuna parte, tu li guardavi, io li guardavo proprio cercando di capire come erano fatti, cos'erano, e loro si costruivano tutti gli strumenti e anche tutti i set. Quando vai a vedere un concerto live, in realtà non vedi delle tastiere Roland, Korg, di marche, hanno tutta roba che sembra fatta da loro, non l'ho mai visto lo strumento diciamo commerciale. Anche nel concerti degli anni 90, intendo. Poi, vabbè, quelli degli anni 70 e 80, proprio in tutte le foto dove si vedono loro con degli strumenti, sono degli strumenti musicali che non esistono, che non, commercialmente, a parte la roba della Texas Instruments, quando c'è stato Electric Café, molti dei brani contenevano le voci sintetizzate della Texas, stile Speak and Spell, e utilizzavano un affare della Texas che sembrava una calcolatrice con un display, che sembrava proprio una calcolatrice con un altoparlante sopra che faceva, credo, da traduttore o roba del genere, però il suono che generava acustico era quello dello Speak and Spell. Scusa Davide, un secondo. Che è successo? E c'è il contributo. Vediamo se ci riusciamo. Visto che John Carpenter è intervenuto, questa non sembra elettronica, no? Lo è, in buona parte. È il classico stile Duba. Ma che tristezza. Beh, disco Mosco è un po' come i quadri di Fred col pallino rotondo in mezzo, che tutti dicono cazzo, che opera d'arte fantastica. Beh, ma allora è vero che col film fa tutto un altro, con film, qui non c'è Iena, c'è un altro attore, spero che l'abbiate visto, è un film fantastico da vedere. Vabbè, poi il richiamo western alla Morricone, dai, su ragazzi, cioè, di che palle, no, dai, ragazzi, su. No, che palle sentita così adesso mentre i musicali sono un po' più terra a terra, ragazzi, perdonate. io se c'è qualcosa che non mi garba lo dico. Sant'Agostino si sente la trap, capito? Quindi questa qua e poi ha perso tanti punti lui con quell'affermazione, non vorrei dirlo, ma vabbè. Questa qua va sentita con della trap che mi piace, cosa devo dire? Va sentita con concentrazione, va sentita in un contesto bello, con le luci giuste, con il coso giusto, però è bella, dai. La lasciamo sotto, vai, continua. No, andiamo, sennò c'è un E4 altro che siamo a uno. Comunque, vabbè, niente, quindi concludendo, sui Kraftwerk possiamo dire appunto che sono quelli che hanno messo le basi, è consolidato anche a livello storico, hanno messo le basi per quello che è la musica elettronica, che poi tutti quelli che successivamente hanno fatto della musica hanno cominciato a prendere spunto. E da lì poi loro comunque sono sempre andati avanti, hanno seguito anche loro un po' il filone commerciale, perché comunque, ragazzi, per magnare bisogna fare i dischi che si vendono. Quindi va bene sperimentare, bello sperimentare, però quando sperimenti 24 dischi dici, beh, insomma, io vorrei che mangiare, facciamo anche noi. Dipende, non in senso assoluto. Diciamo, generalmente è come dici tu, sì. Diciamo che se sono figli di papà e hanno i soldi, uno può sperimentare, però se ci devono vivere, insomma, ecco, un pochino devono anche abbassare la guardia. Ma chi è che guarda la televisione mentre che fa la trasmissione? Scusate, questa è. No, a Sant'Agostino, ma basta. Questa è musica, mica quella di prima. Sì, però quello che voglio dire, Sant'Agostino. Per cortesia, dopo 10 anni che fai i podcast con noi, mandi il file su Telegram come ha fatto Tomaiuolo e lo mandiamo. Io sono anarchico, lo sai. Ho capito. Mi aspettavo elettrica salsa da lui, ma vabbè. Sei incivile, non sei anarchico, scusa, così. Comunque, vabbè, con The Robots e poi successivi brani, c'è stato un periodo in cui hanno fatto dei brani abbastanza commerciali, diciamo che poi comunque sono ritornati a fare... sono diventati talmente famosi e ricchi che si sono permessi di continuare a fare sperimentazione con brani anche abbastanza difficili da ascoltare, perché ci sono i brani degli ultimi album, sono abbastanza molto c'è molta ricerca, molto quindi è un po' più complicato. Va bene, qui siamo sempre negli anni 70 ancora, e comunque appaiono anche altri che utilizzano la musica elettronica per altri generi molto più, secondo me, anche quasi idonei alla musica elettronica, perché di fatti tipo Jean-Michel Jarre piuttosto che Vangelis, adesso non so come ognuno li chiama in un modo, c'è la filone dei Vangelis e dei Vangelis. Comunque Evangelion, così Simone urla dai pure qua. Neo Genesis Evangelion pure qua. Esatto. Che sono, vengono taggati come classico elettronica, vabbè. I Tangerine Dream, che invece fanno musica tipo cosmic music, e sempre all'interno del krautrock, quindi sempre, diciamo, sul filone Kraftwerk, bisogna dirlo nel modo giusto, ragazzi. Lo dico sempre all'inglese. La colonna sonora di Il Falco della Strada o Nighthawk, il telefilm, è dei Tangerine Dreams. La sigla iniziale. Eh sì, loro facevano questa musica molto stellare, che anche questa, anche loro sono stati famosi per un lasso di tempo forse troppo breve rispetto a quello che magari meritavano, perché poi sono un po' scomparsi. Adesso nessuno se li ricorda, si ricordano tutti Kraftwerk, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Vangelion, che musica facevano, non me lo ricordo. E poi vabbè, arriva Giorgio Moroder che in realtà, sfruttando il filone commerciale, ovviamente è entrato nelle cassette, nei dischi, nei mangiadischi, nelle radio di tutti praticamente, e ha avuto grande fortuna e ha introdotto un concetto di musica elettronica molto più commerciale, quindi che suonava quasi come della musica disco, però con delle sonorità molto più precise, molto più ben bilanciate. I suoni erano completamente più, cioè, nonostante tutto negli anni 70 si registrava negli studi al meglio che si poteva, ma comunque era musica registrata con i microfoni, registravi la chitarra, la batteria, si faceva un buon lavoro, ovviamente registrando con gli strumenti elettronici, non è più il passaggio microfono strumenti, ma vai dentro direttamente, la qualità si alza notevolmente. Lui è riuscito con i sintetizzatori dell'epoca a riprodurre sia le batterie elettroniche, i ritmi e degli strumenti adeguati, e aveva una qualità notevole pur suonando con i sintetizzatori, ed è diventato molto popolare per questo motivo, anche perché diceva: cacchio, questo sta facendo della musica che sembra fatta da dei musicisti, una band della Madonna, ma è lui da solo che fa tutta sta roba. Jean-Michel Jarre, cosa dici? Perché io sapevo che c'era una specie di divisione tra virgolette fra i Kraftwerk, che erano elettronica dura e pura se vogliamo, e invece Jean-Michel Jarre, che era visto quasi come un melodico, se vogliamo, Oxygen, sì. Magnetic Fields, Equinox, tutta... Sì, lui ha sfruttato, diciamo, il filone più appunto così fantasy della musica, ascoltando questi suoni che poi dopo lui riverberava tantissimo, li allungava tantissimo, faceva dei suoni molto più... cioè lui schiacciava una nota, suonava per un quarto d'ora tra riverberi e altro... creava questo ambient della Madonna, e lui l'ambient non è a Brianino, più ambient ancora. Sì, Brianino è stato uno dei miei preferiti, se devo dire la verità. Sì, anche lui faceva musica ambient, però lui un po' più ricercata. Jean-Michel Jarre, se vogliamo, se ci pensate, insomma, bene o male ha sempre cercato di seguire nello stile un po' la musica commerciale, cioè sempre un po' molto fantasiosa, particolare, sempre musica da sogno, da viaggi più semplice da... forse sì più semplice, ma comunque orientata come ritmiche anche sempre sul commerciale. Voglio dire, qualcuno dei suoi brani era ballabile, invece magari Brian Eno a volte era un po' più sul ricercato, era musica che dovevi ascoltarla concentrato più che ballarla in discoteca. Difatti non è molto famoso Brian Eno in discoteca, voglio dire. E poi si arriva degli Enigma. Non li conosco. Gli Enigma sono degli anni 80, 90. Anche 90. Sì. 90, vabbè, 90. Allora sì, 90, era, ti ricordi Ameno? Esatto. Io lo vedi, che sono tutti successori a quando Davide è tutta roba da giovani. La roba da giovani è comunque roba di nicchia, perché dai, nomi, parliamo di chi? Vabbè, Enigma no. Enigma molto. No, lo riconosco davvero, non è una roba che ho ascoltato, quindi probabilmente non la conosco, mi sfugge, ma comunque poco importa, sai, non è che devo conoscere tutta la musica. No, no, ma infatti chissene, insomma. Esatto. E quindi vabbè, poi ce ne furono tanti altri, adesso non me ne sono venuti in mente più di tanti, anche perché c'è anche un elenco, abbiamo fatto, se facessimo un elenco di tutti i musicisti finiremo dopo domani, però diciamo, citiamo quelli che più sono stati i precursori, che poi tutti gli altri successivamente li hanno un po', come dire, non dico copiati, ma insomma hanno preso spunto da quello che era. Certo. E cosa volevo dire? Mi sono perso. Sono incasinato. Cos'è che volevi dire? Alla fine degli anni 70 iniziamo gli anni 80, dai, così c'è un po' di movimento, su. Il Moog, però, questo è importante. Sì, no, esatto, in quegli anni i sintetizzatori erano molto diffusi, parliamo di anni 70, Negli anni 70 erano diffusi, ma fondamentalmente esisteva quasi solo un'azienda che produceva sintetizzatori commerciali su larga scala, poi dopo magari c'era anche qualche minore, ma il sintetizzatore più famoso era quello che tutti chiamavano Moog, e addirittura lo chiamavano Moog inteso come strumento, no? Il Moog, quello da fare lì, invece era un sintetizzatore. Il Moog era l'azienda che lo produceva, che prendeva il nome dal suo inventore, che era Robert Moog, detto Bob Moog, che è l'uomo che è della nostra copertina, che sta suonando il sintetizzatore nella copertina del nostro episodio di stasera, che era un po' più giovanotto. E anche lui è morto non molto tempo fa. Ah, pensavo anche lui era morto, ma non se n'è accorto. No, magari non se n'è accorto, non lo so, non so dire, però. È la morte migliore quella che non te ne accorgi. Esatto. No, comunque Bob Moog, che appunto ha fatto questo strumento musicale, che poi ne fece tantissime versioni e divenne poi lo strumento utilizzato da tutti, e però appunto era un sintetizzatore, però soprannominato quello. Sempre in quel periodo nacquero anche le prime batterie elettroniche, quindi strumenti che generavano dei ritmi, che però aveva un suono talmente scarso che lo usavano solo appunto per fare qualche sperimentazione, ma non era per i Kraftwerk, se la facevano loro la ritmica, cioè creando il suono col sintetizzatore del rullante, della cassa, dei piatti, se lo facevano cassa. Loro non una... cassa e mentre invece uscirono questi generatori di ritmi che però non ebbero grande successo, ma che paradossalmente, come tante cose cicliche nella storia, nella vita, invece sono diventati oggetti di culto e ricercatissimi oggi, e vengono utilizzati anche oggi, roba degli anni 70, tutti cercano queste batterie elettroniche, queste robe, ma non campionate usando i campioni che si può fare in 3 secondi, no? Sintetizzate. Esatto, vogliono proprio l'originale, con uno scatolone grosso come una casa che fa che fa un suono del piffero, e però vogliono quello, lo vogliono e lo pagano anche 5.000 euro un rottame di coso. La prima batteria elettronica è elettromeccanica. Diciamo che Pong ha fatto da base musicale per... Pong, poi lo sentiamo, una sorta di Pong, un brano che ci farà sentire. Poi il brano di Carlo inizia con uno strumento che un pochino effettivamente ricorda quasi il Pong in un certo senso, non c'entra niente, però diciamo suona molto semplice di quel genere. E niente, quindi gli anni 70 furono così di scoperta, l'elettronica sta cominciando a entrare nelle orecchie delle persone, la gente si sta cominciando a abituare, e poi negli anni 80, visto il filone di grande interesse e di successo, esplode con i botti di tutti i colori, di tutti i generi, tutti vogliono fare la musica con i sintetizzatori, tutti, molte aziende producono strumenti di tutti i generi, il mercato comincia ad essere invaso da tantissimi strumenti elettronici che fanno suoni di tutti i generi, e si comincia un po' a utilizzarli in maniera così massiccia che si dice anche che negli 80 vengono ricordati un po' anche negativamente per questo uso, questo abuso della musica elettronica per cavalcare la moda del momento, perché il figo doveva usare il sintetizzatore più nuovo, più figo, più bello, più grosso, io ce l'ho più grosso e ce l'ho più bello. Tu hai fatto un elenco di nomi che io ne conosco manco uno. Nel periodo analogico hai scritto Minimo Moog, che mai saputo c'era anche il Mini Moog, l'Arp Odyssey, il Korg MS-10, il Poly 6, la Korg ha fatto la storia. Poly 6, Korg Poly 800, Poly 800. Tutti lo Oberheim, il Chroma Prophet 5, tutti i beat. Vabbè, ma perché non era il tuo campo? Che c'entra? Tu devi considerare, spieghiamolo un attimo, perché non è che stiamo a parlare fra di noi, stiamo facendo una trasmissione anche per chi ci ascolta. Che Davide, come sapete, faccio l'uomo della strada. Che Davide, come sapete, in realtà lui lo ha dimostrato, insomma, facendoci ascoltare vari brani, insomma, durante questa stagione, in particolare di Runtime, e poi dopo ne ascoltiamo anche un altro, penso. E giustamente ha smanettato tantissimo, sia con gli studi di registrazione che con gli strumenti, smanettava, faceva, cuciva, aggiustava, suonava, e quindi alla fine è una cosa, insomma, è un campo, quello della musica elettronica, magari in particolare degli anni 70, che conosce bene. Poi è vero che forse negli anni 80 la musica era più ascoltabile, più commerciale, però è vero che chiaramente negli anni 70 era molto più sperimentale, anche perché a volte, ragazzi, aver fatto la sigla di DJ Television per un mese non è proprio banale. Esatto, infatti la minimizza, ma esatto, noi ricorderemo che Davide Gatti per No Bangalo, e che io la vorrei mettere come sigla di uno dei nostri programmi, insomma. Adesso troverò un programma a caso. Ma parlando proprio di quello, se proprio vogliamo dirlo, è che i nostri produttori, perché non è che facevamo la roba da soli, noi eravamo minorenni praticamente, avevamo dei produttori che erano, cito i nomi anche se tanto non neanche esistono più, non so più che fine hanno fatto. Uno è Stefano Secchi, che sicuramente negli anni 80 qualcuno se lo ricorda. Grandissimo, e ha fatto I Say Yeah, me la ricordo. Esattamente, e Maurizio Pavesi che era io non voglio interrompere questo idilio. No, quella non c'entra niente. No, vedi che me lo dovete cacciare questo, perché stasera. Però scusate un secondo, soltanto caricato quell'altra cosa per cortesia, fare un quiz per cortesia, per chiedere quella cosa se viene riconosciuta o no. Ok, devo risolvere soltanto un problema tecnico, perché ci potrebbe essere il rischio di un'interferenza. Aspettate. Radio Cassa Dritta. Massimo il Gladiatore, numero uno in assoluto. Mio preferito, non l'ho mai conosciuto. Voglio il suo autografo. Verdi pomeriggio, Radio Cassa Dritta, solo musica tecno. L'unica radio che fa? Scusate, le gambe sono cazzate. Vabbè, comunque questa è l'interferenza, insomma, che era dovuta, perché oramai è diventato il nostro nuovo mito. E c'è la gente che mi insegue nelle chat. Ma è possibile che conoscevi Radio Cassa Dritta? La conoscevo, raga, che non è che me posso uccidere per sta non cosa. Non ero cultore neanche io, però la conoscevo almeno. E comunque, tornando agli strumenti velocemente, adesso chiaro che gli strumenti li ho citati, ma così per buttarli dei nomi, ma ce ne sono stati molti altri, questi sono tra i più famosi. Più che altro li cito perché sono il periodo analogico, e quindi strumenti che sono sintetizzatori analogici, vuol dire che non avevano nessuna parte digitale, non avevano microprocessori, non avevano parti. Abbiamo perso, ah no, è ritornato, scusate, ho visto perdere una persona in chat. Capita. E comunque, vabbè, strumenti che hanno segnato comunque in qualche modo, ognuno a suo modo, delle ere musicali, e in particolare ci sono degli strumenti che hanno un'impronta talmente nota, sulle quali certe canzoni sono famose quasi più per lo strumento col quale sono state suonate che per il brano stesso, no? E ce ne sono molte, adesso non voglio citare più di tanto, però posso dire una è quella che è il brano che ha scelto Carlo, che inizia con un suono che sembra apparentemente un suono strano elettronico, ma che di fatto chi suonava in quei periodi riconosceva all'istante che era un determinato tipo di strumento che era popolarissimo in quel periodo, perché era uno dei primi sintetizzatori, chiamiamoli super economici, che faceva tante cose carine ed era portatile, piccolino, aveva tante cose carucce, che era il Casio Vuelton, che magari nessuno di voi sa che cos'è, comunque alla faccia di quasi un giocattolo, però aveva la sua, ma in quel momento. Scusa, Davide, ma in, c'è questo, ma c'è in tutto questo in scaletta adesso. Cosa? Il brano? Il brano col VL10. C'è quello che volete, sì, dire voi, basta che mi dite il titolo, io lo metto, quindi non c'è un problema. Sì, da. Ah, ok, vabbè, vado allora. Siete sicuri, eh? Perché è una roba così, insomma, che vabbè, insomma, allora ce l'ascoltiamo. Sulle mani, dai, was ist los mit dir, mein Schatz? Non vedo Domaiuolo che mi pompa sulla sedia. Però qui bisogna aspettare il ritornello, perché adesso è un momento sperimentale, ma poi arriva il ritornello che spacca. Ma aspetta. Sono tedeschi anche loro. Si sente? E faccio sentire sto ritornello, Sant'Agostino. Questo era. Questa musica io me la ricordo per due motivi. Il primo motivo è quello che ha detto Davide per il Casio VL eccetera, che però io ho scoperto anni dopo. Cioè, io conoscevo questa canzone, ce l'avevo in testa. Anni dopo ho trovato per caso questo Casio piccolino VL da provare, l'ho acceso, schiacciato un tasto e ha iniziato. Esattamente lo stesso ritmo. Vabbè, allora ce l'avevo pure io. Ma senti un po', ma allora, quanto è stato importante nella storia della musica, cioè la domanda riformulo, quanto è stato importante nella storia della musica elettronica la Bon Tempi? Tempi non tantissimi. Ma come? Più la farfisa, che comunque era Negli strumenti musicali in Italia c'è stato un momento importante in cui venivano prodotti veramente tantissimi strumenti musicali che hanno fatto anche loro la loro storia. Parliamo della Siel, parliamo della Krumar, parliamo la Gemma, tutte che erano in quella zona, nel Maceratese, in zona Maceratese, inclusa anche la Bontempi e la Farfisa, erano tutti un polo che... Io c'avevo una Gemma grossa così, gigantesca proprio. Di tastiera che sono diventate anche famose nel mondo, determinati tipi di modelli. La Bontempi purtroppo era relegata al gioco sempre, quindi era sempre visto come un giocattolo. Momento. L'altro motivo per cui invece mi ricordo questo brano è che è legato in particolare al calcio. E tu, Simone, è strano che tu non lo sappia, perché non te lo ricordi. C'era un coro, se non mi sbaglio. C'era un coro. Questo brano è del 1982. Cosa è successo nell'82? Abbiamo vinto i mondiali. Bravo. Abbiamo vinto i mondiali e siccome c'era questo brano, tutti i figli di Berzot, siamo tutti i figli di Berzot, ma ricordo, esattamente, tutti cantavamo questa canzone in versione italiana dedicata a Berzot perché avevamo vinto i mondiali di calcio, siamo tutti i figli di Berzot, bravissimo. me la ricordo. Se la ricorda. E questa tastierina ha giocato colonna sonora del Divo di come si chiama, Sorrentino, recentemente questa. Sì, comunque è diventata una canzone di culto questa, quando questa gira ancora, nelle discoteche perché... ancora spacca questa. E questa qua, e niente, quindi questo suonino, questo suonino qua, loro l'hanno sentito, ci hanno fatto una canzone sopra. In realtà è una canzone che è nata praticamente sullo strumento, non è, gli hanno dato l'opportunità, gli sono andati dietro e hanno fatto una canzone. E quando l'ho sentita, che io ce l'avevo questo caso, io dicevo: guarda sti pirla che hanno fatto una canzone, questa batterina, pi, pi, pi, pi, pi, pi, e invece vaffanbagno, hanno fatto i miliardi. Io ero lì che facevo cercavo di ottenere dei risultati di qualità con quello che avevo in quei periodi, che erano degli strumenti giocattolo quasi, e mai avrei fatto una batteria così, avrei detto ma va, c'ho feca lì. E quando è uscito, infatti, io dicevo ma va sti fessi qua, invece. Intanto Simone, continuano a ringraziarti per il pesce d'aprile. Sì, lo stavo leggendo adesso. Continuano ad arrivare gli insulti, giustamente, addirittura stronzi. Comunque, dal profondo del cuore, giusto, hanno ragione però, dai. Come dicevi tu, se non ti offendono, non ti minacciano di morte, non esisti. Sì, esatto, è vero. Non esiste, quindi stai comunque tenendo botta con questo discorso. Sì, vabbè. Siamo stati abituati, io e Alex siamo stati abituati a ben peggio, insomma, alle minacce di morte, quindi figurati. Tranquillo. Però vabbè, mi dispiace, insomma, comunque. Però ecco, siamo tutti figli di Berzot, grande, spaccava. E poi un'altra invece, per esempio, così ve la cito, anche se magari non è difficile adesso, non ce l'abbiamo come contributo, ma ve la ricordate forse. Enola Gay inizia con una tastierina e poi inizia una ritmica, che ha una ritmica particolare, che è sempre di una batteria elettronica che è diventata famosissima e di culto, che si chiama CR78 della Roland, e anche loro ce l'hanno dominante come suono di sottofondo, di questa piccola batteria, come tante altre canzoni magari meno famose o comunque famose, che iniziano con un riff di tastiera che quando uno la sente dice ma questo è un DX7, questo è un Robert Aim, cacchio, ci hanno fatto quel suono, tutto questo sì, uno normale, esatto. però molte canzoni sono nate non perché c'era l'artista che aveva in mente qualcosa, ma perché ha colto l'opportunità sentendo una roba, questo strumento, cacchio, va che figata, schiacci questo bottone e fa benissimo, bello, lo sfrutto subito e lo vado. Beh, ma guarda che a volte è il tempismo che fa la storia. Ma è anche la fortuna, per esempio, chi fa le batterie elettroniche, non erano programmabili, schiacciavi il bottone, valzer, e facevano il valzer, schiacciava il disco e faceva sì, disco, sì, no? Vero, vero. E faceva dei ritmi fissi. Ecco, questi ritmi fissi in qualche brano li senti, no? E dici, il tizio ha scoperto sto affare che fa in automatico delle robe, parte e fa il brano su quello, e tu quando lo ascolti lo riconosci, dici, quello è il ritmo di default dell'RX 12 della Korg, riconosci dei preset di default. Per esempio nei dischi di Madonna degli anni 90 o degli anni 85, tutta la musica erano quasi tutti suoni preset di default del DX7. Quando tu sentivi i suoni dicevi, quello ha usato il, riconoscevi direttamente il suono che c'era sulla tastiera. Però vabbè, questo è chiaro, se lo strumento ti dà questa opportunità tu le sfrutti, certo. All'inizio, se tu pensi di essere il primo a usarla, nessuno sa che lo strumento fa quel suono lì, sei tu il primo. Scusa Davide, io vorrei sapere da sì. Carlo se lui sa la Roland di quale grande triumvirato ha fatto parte. Non ne ho la minima idea. Ma come, Carlo? La Roland, la Adlib e la Creative Lab Sound Blaster erano le tre schede che, di cui si parlava sempre quando si facevano. Si dice la Roland, le tre schede, la Adlib, la Sound Blaster, la Roland e la Roland. E la Roland era la marca. Vabbè, però era, sì, era tra le tre sempre citate. Che poi io non ho mai conosciuto nessuno che c'aveva né la Roland né la Adlib. L'Adlib è un blat, che poi Adlib è stata la prima. Ha fatto l'MT32. Sì, sì. MT32, no, ma guarda che c'è, guarda che giravano, voglio se giravano, perché sì, comunque per me è roba nuova, quindi cose recenti. Sì. Ma che cazzo stai? Vabbè, c'era una domanda. Sì, c'era già i giochi 3D. Sì, vabbè, però su mondo roba dell'altro ieri, mica è certo. Comunque io non ho mai conosciuto nessuno che c'aveva l'Adlib, comunque vita mia, mai nessuno. L'Adlib ce l'ho avuta io, sì, sul 386. Io come Adlib da sola no, ce l'avevo, come avevo la Sound Blaster che emulava anche l'Adlib. Quello poi tutti dopo ce l'hanno avuto. No, l'Adlib sì. Ce l'avevo perché uno dei primi 386 che mi sono fatto, quando in realtà usavo ancora l'Amiga come computer principale, mi ero fatto questo 386 autocostruito e non c'era ancora la Sound Blaster, era una compatibile Adlib, in realtà. Se non mi ricordo male si chiamava Mozart, credo. Può essere, mi suona, mi ricordo il nome. Orzata si chiamava. Dicevi Roberto, stavi dicendo? Orzata, che Orzata. Video killed the radio star dei Buggles. Sì. Anche quella, se non ricordo male, è stata abbastanza un capostipite, perché comincia negli anni 80 e anticipa tutta una serie, credo che l'abbiamo tutti in mente, spero, la canzone. Sì. Sì, meglio io sì. Video star the radio, no, video kill the radio star. Video kill the radio star. Ta ta ta ta. Sì, è quello, esatto. Comunque Ruggio in chat sì, ci dice la mitica Roland Sound Canvas. È vero. Nice. Però prima ancora c'era le. Come ti ho detto, per me è roba nuova quella. Prova che. Che persona fastidiosa. Quindi mi dicevi sul su questo qua. Con la verità, io sulla musica l'ho sempre detto, c'è un cazzo. Secondo me loro sono stati più capostipiti, su loro capostipiti non tanto di un genere, forse erano più stati capostipiti sui videoclip, forse, nella parte video. Ma sì, ma perché in realtà Video Killer Hero Star è una musica quasi classica, pop, normale, non l'ho mai caratterizzata come elettronica. Viene di solito inquadrata come un capostipite tecno, esatto. Addirittura. Ma io mi ricordo più Enola Gay, e l'altro era 19. Di che anno era? Cercate tanto di che anno è, mentre il Video Kill, secondo me, è dei primi anni 80. Dell'80. Sì, secondo me stava entrando nel giro, era molto commerciale, orecchiabile, bellissima, è rimasta ancora una canzone di culto tutt'oggi, a parte che poi anche il testo era abbastanza interessante di quella canzone. Che tutti comprendevano più o meno. Io non capivo mai una mazza dei testi delle canzoni in inglese, le ascoltavo, le ripetevo, non sapevo neanche che cazzo dicevano. Vabbè, io lo faccio ancora oggi questo. Esatto. E invece quello era un testo che in qualche modo si comprendeva, no? Era questa testimoniare il fatto che la TV stava uccidendo la radio, insomma, detto così. Però secondo me quella non è molto, molto elettronica, era più dance, più, dice, chiamiamola più commerciale, che suonava bene, come anche, come si chiama, porca miseria, non me lo sono scritto, era una di quelle che dovevo scrivermi il titolo, famosissima, che Born to be Alive. Born to be Alive, che è sempre è un po' che, è il remake di Born to be Alive. Born to be Alive era una musica, oserei dire, disco, però stava già entrando nelle orecchie di quelli che degli anni 80, insomma. Però poi negli anni 80, appunto, questi strumenti e tutta questa roba hanno dato l'opportunità veramente a tanti di poter suonare obiettivamente anche quasi senza saper suonare, perché suonare una chitarra, una batteria, un basso devi saperli suonare, sennò fai musica di merda. Se invece hai un sintetizzatore che magari ha dentro un sequencer, una batteria elettronica che ti fa la ritmica, puoi anche non essere proprio il genio musicista, puoi avere una buona idea musicale, ma magari sei un pessimo esecutore. Invece con questi strumenti cominci a poter realizzare della musica anche se non sei proprio il top esperto. E quindi nascono molti giovani band che, come ce l'ho, che hanno solo 16, 17, 18 anni, proprio giovani, che non hanno alle spalle conservatorio, chissà che cosa, si cominciavano a buttare maneggiando questi strumenti, e da quel momento, insomma, comincia a nascere un filone che, insomma, pop elettronico, quindi musica commerciale, cioè musica molto diffusa, che poi viene chiamata synth pop oggi. All'epoca magari non era proprio synth pop, si chiamava, la chiamavano musica pop elettronica, sì, dance pop. Poi ultimamente è diventata synth pop perché è legata ai sintetizzatori, appunto. Oppure electropop, più in Europa, la chiamano electropop. Synth pop più in Inghilterra, che non considera Europa, e negli Stati Uniti, che non considera Europa lo stesso, ovviamente. E poi nasce sempre in Europa, che poi nasce in Europa, appunto, come si diceva, e poi non morì mai. Praticamente questo filone nasce negli anni 80, poi cambia, ha delle evoluzioni, fondamentalmente rimane per sempre. La musica synth pop la fanno ancora oggi, l'electropop e la dance la fanno ancora oggi. Poi sono nati altri nuovi generi, ci sono state altre evoluzioni, c'è tutta la porcheria che sentiamo oggi. Così per essere leggero e per farmi tanti amici. E giusto negli anni 80, se vogliamo ricordare qualche nome proprio tra i più diffusi, parliamo di Depeche Mode, Soft Cell, che magari non è molto conosciuta a tutti, però insomma anche loro fanno musica molto simile a quella di Depeche Mode, gli Orchestra Manovers in the Dark, i Visage, Tears for Fears, Alphaville. E questi erano quelli della prima fase, cioè quelli proprio appena nati degli anni 80. Alphaville, che ricordiamo, è una citazione poi, no? Non so adesso l'origine del nome inteso. Per noi è una citazione, perché abbiamo parlato un paio di mesi fa di un film che io non conoscevo minimamente, con questo titolo. Non so se sono legati a questa cosa, il nome di questo gruppo. Vabbè, dai, non è così improbabile, dai. Può essere. E questa era la prima fase, possiamo dire anche quasi, della musica un po' british, se vogliamo, perché era un po' era musica di un certo tipo. Poi è cominciata a sfociare un po' nel per quello che dico io, un po' nel trash, se vogliamo, tipo Pet Shop Boys, Erasure, quelli un che po' piacciono meno, a me, insomma, Paninaro, quelli che piacciono a me. Siccome dentro gli Yazoo c'è Vince Clarke, che è il fondatore, il musicista quello migliore che c'era nei Depeche Mode, che poi dopo il primo album se n'è andato, ed è andato, ha fatto il gruppo con Alison Moyet, ha fatto gli Yazoo, che ha fatto poca roba. Please Don't Go? No, Please Don't Go. Don't Go e basta. Please Don't Go. No, Please Don't Go è un altro. Come si chiama la canzone di Yazoo? Yes Don't Go è di Halliwell, non mi ricordo esattamente. Don't Go senza Pisa. No, quello è Don't Go. Sì, sì. Axel Fuller, io mi ricordo una canzone, no, si chiama Axel Fuller. Axel Fuller era roba americana. Axel Fuller è roba americana. Direi che non so, Axel F. Che l'aveva fatto, non me lo ricordo. È un americano comunque. Però quella era molto elettronica. Sì, era abbastanza elettronica, dance, però esatto, andava, cominciava già a avvicinarsi allo stile americano, che cominciava a tirare dentro un po' il rap, quella musica lì un po' più sull'americano. Io mi ricordo la house, come ho detto prima, mi ricordo Bomb the Bass, poi c'era, no aspetta, come si chiama? Quello che ho detto prima. Dopo 19, cosa c'era stato? Ce n'era un'altra, quella che iniziava na na na 19. Quella è Polar Castle. Ah, ok. Sì, ce n'era. Però siamo già negli anni 90, forse, no? No, tantissima. Sì, lì cominciamo con la storia dei campionatori, ma quella la vediamo dopo. Comunque, qui siamo ancora... Stiamo passando nella musica un po' sul trash, nel senso che comincia a uscire veramente un sacco di roba fatta da tutti. Lì si comincia a vedere un po' la musica buttata lì, perché bisogna fare la musica, sono tutti capaci, le produzioni costano meno, tutto diventa più semplice, la gente compra i dischi, c'è ancora la cultura di comprare i dischi, se ne fanno uscire tanti e quindi si comincia a fare... comincia a esserci tanta roba meno bella, meno ricercata, veramente super commerciale e di qualità a volte che discutibile. Ma infatti posso chiedere una cosa, cioè così al volo, scusa se ti interrompo Davide, però sai, io d'altronde sto qua per questo, no? Certo. Vi posso far sentire una cosa che non c'entra sicuramente niente, ma chi ascoltavo sempre quando ero ragazzino? Certo. Così poi mi dite, non c'entra niente e via. Mi sembra dei bei passi elettronici. Fa schifo la qualità di sto audio, purtroppo. Questo disco l'avrò bruciato praticamente. Io quando ascolto sto suono di basso elettronico fatto con 16 oscillatori di un Prophet mi viene il brivido nella schiena. Cioè, e poi questi, se tu pensi agli Imagination, cioè roba tipo, questi erano dei cretini fondamentalmente. Eppure ti vergogno per loro io. Esatto, però poi cazzo era figa sta roba. Oh. Assolutamente, questo è bello. Vabbè, niente, scusate, volevo... Qua faccio uno spoilerino piccolo, ma tanto nessuno se ne accorgerà. Un giorno io e Alex faremo un episodio di MDB Summer Radio molto particolare, perché sono venuto in possesso in maniera illegale, tanto visto che siamo perseguitati dalla SKY. Esatto. Non è così difficile trovarli, però diciamo che sono venuto in possesso veramente di un sacco di brani musicali, anche di personaggi estremamente famosi, parlo di Beatles, parlo di Michael Jackson. Sono riuscito a ottenere le tracce separate delle registrazioni del studio, quindi ho il multitrack originale di un sacco di canzoni di Michael Jackson e anche degli Imagination, ho le tracce tutte separate, voci. Allora, circolano, non sai che non so, perché comunque i Beatles stanno molto borderline sulla scadenza i Beatles. Sai chi devi su quattro tracce, hai quelle tracce comunque. Davide, sai chi devi ascoltare, che è incredibile, quello che dicevamo prima, Franco Battiato. Battiato non gira un caso però gira quasi tutta la musica più famosa, gira quello che gira, in realtà non si sa da dove arriva quella roba, perché mi sembra, quando l'ho trovata, mi sembrava impossibile. Vabbè, abbiamo capito. Mi sembra impossibile. Qui c'è la sbagliatura a tirare, oltretutto, sei pure masochista. Ha una valanga di tracce, io vidi uno speciale in cui le fecero sentire. Roberto? È morto. Il 5G. È stata la CIA, è stata la CIA. Stacca, uno per volta. Stacca tutto, stacca. Ci prendono uno per volta. Roberto, cerca di tornare fra di noi. Adesso lui, mentre ritorna, comunque vabbè, e tornando a questo brano che hai fatto sentire, di questo in particolare ho anche il multitrack, di cui sono, ho anche solo la linea di basso, e quando me la sento mi sento solo quella. Ecco, questo è un gruppo di che era ancora, secondo me, nella fascia che stava abbandonando la disco e stava entrando nella musica elettronica dance, perché comunque loro sono americani, gli americani sono entrati nella musica elettronica, quella che conosciamo dei Visage, Tears for Fears, Alphaville, Orchestra Barber's Dance. Gli americani sono entrati un po' dopo rispetto all'Europa, è un fenomeno che è nato in Europa e poi gli americani sono poi arrivati, ma loro sono arrivati mettendoci il loro zampino di metterci dentro un po' di rap e con le ritmiche un po' più simili a quelle che oggi ascoltiamo nell'hip hop. E che continuano a esistere, cioè se tu ascolti un brano americano newyorkese degli anni 85-87 fondamentalmente sembra un brano che contemporaneo di oggi, quasi, cioè è andato avanti molto su questo tipo di genere. E diciamo che adesso entriamo invece nel vivo dell'italianità, se vogliamo, perché sì, in quegli anni, un po' come gli spaghetti western, in Italia arriva un fenomeno che si chiama, che fu chiamato, all'epoca non era ancora chiamato così, un po' dopo venne soprannominato così, quello che chiameremo Italo Disco. Eccolo, è tornato. 5G. 8G. Stavi dicendo una cosa, ti sei interrotta la parola, ma non ci ricordiamo più cosa stessi dicendo. Ma quindi non era importante, andiamo avanti. Non è... Vai, Davide. Stavo comunque accennando del fatto che in Italia nel frattempo stava nascendo un fenomeno molto simile allo spaghetti western, se lo vogliamo fare un parallelo con il video, per quello che riguarda la musica, un fenomeno che poi successivamente venne chiamato Italo Disco, che era iniziato anche negli anni 70, se vogliamo, però poi negli anni 80 ebbe la sua esplosione. E questo non lo sapevo, lo leggo adesso direttamente da Wikipedia, dice che a partire dagli anni 80, in seguito dalla Disco Demolition Night, una manifestazione anti-disco, disco music inteso, tenutasi durante un double hitter di baseball al Comiskey Park a Chicago il 22 luglio, il 12 luglio 79, il giorno in cui la disco morì, il fenomeno della disco music si attenuerà inesorabilmente, trasformandosi in electropop. Quindi, diciamo, quell'evento che capitò nel 79, di cui io non sapevo neanche dell'esistenza, e in America ovviamente nacque questo genere che univa la ritmica break con i suoni della drum machine Roland TR-808, di cui qualcuno ci ha fatto anche 5-6 libri sulla TR-808, che magari è per voi uno strumento che non sapete neanche cosa sia. È una batteria, esatto, elettronica della Roland, che all'epoca aveva era analogica in pratica, per cui generava dei suoni che assomigliavano alla batteria, quindi non era molto prestante, però costava poco ed era completamente programmabile, quindi potevi fare le ritmiche che volevi, ci assomigliava, però ti consentiva davvero di fare delle cose di un certo tipo, e venne usata tantissimo, e oggi ovviamente è ricercata come un Vectrex, per fare un parallelo. A colori, ha detto a Vectrex. Esatto, e colori, non si trova nei cassonetti manco morto, e chi ce l'ha, cioè ci sono adesso 3000 cloni, c'è ovviamente le versioni software, le versioni simulate, le versioni clonate, le versioni replicate, la Roland stessa l'ha rimessa in commercio, sia nel formato uguale che nel formato ridotto, però è un po' come gli audiofili, sì, ma non suona come l'originale, quindi devono avere l'originale. E la fa sempre la Roland. Poi un giorno mi dirai cosa pensi dell'esoterismo audio, perché io purtroppo la penso male. Io avevo mio padre che era di quel filone, ve lo racconto giusto per passare 2 minuti di allegria. Mio padre era uno di quelli che diceva: ah, cacchio, qui il cavo perfetto di collegamento per questo, senti che roba sto cavo. Io dicevo: ma che cazzo puoi sentire la differenza di un cavo? Allora un giorno gli ho messo un cavo di merda collegato tra il pre e il finale Macintosh, e ha detto: quindi tu come lo senti? Ma senti che roba, con sto cavo che ho comprato Monster Cable da 150.000 lire all'epoca costava. Senti, senti come si sente. Ha detto: guarda, è da una settimana che ti ho messo un cavo di merda. Il tuo cavo da 150.000 lire, qual è il sacchetto che c'è qua nell'armadio? E dietro c'è un cavettino del cazzo. Quindi. No, ecco perché sentivo. No, l'esoterismo è una cosa che non è neanche quasi misurabile con gli strumenti. Vabbè, eppure non sappiamo neanche cosa sia, a dire il vero. Però vabbè, non entriamo. Non entriamo. Esatto. L'esoterismo è quando uno è maniaco e basta, detto così. E ha i soldi, mettiamolo anche così. O non li ama, comunque vorrebbe averli, se lo può permettere, perché comunque è molto costoso. E quindi stavo dicendo, negli anni 80 c'è questo Demolition eccetera eccetera eccetera. Sto leggendo, scusate, mi sono perso dove ero. Ovviamente. Eravamo nell'Italo Disco, quindi arriva Davide Gatti. Arriva anche Davide Gatti. No, Bangalo. Arriva anche Davide Gatti, perché Davide Gatti fa produzioni dall'80, ufficialmente dall'82 al primo disco, per esempio, che non vi farò mai sentire perché è una roba oscena, che comunque in qualche modo ha avuto un suo successo perché è stato rifatto nel 2012. Un'azienda americana ci ha contattato e si è detto: vorremmo mettere il tuo brano e fare un disco del tuo brano, ma avete degli altri brani inediti che facciamo un album? E cazzo sì, e praticamente nel 2012 è uscito un album con quel brano che noi l'avevamo fatto e ci vergognavamo quasi di averlo fatto, però quello lì, quelli dicevano: cazzo, è un brano cult, favoloso, non c'era, boh, vabbè. Poi gli abbiamo dato dei brani che avevamo registrato in casa con le cassette fatti con il Bontempi, ci mancava poco, e loro... e hanno fatto un album a tiratura limitata di 600 copie, e poi hanno ristampato altre 2500 copie e ci hanno dato dei bei soldi, se devo dire la verità, più soldi di quanti abbiamo preso più di quello più che ci ha dato, e vabbè, la SIAE ci ha dato un cazzo, se devo dire la verità. Questi qua ci continuano a pagare adesso ogni volta che vendono elettronicamente dei brani, perché poi dopo li hanno messi in vendita elettronici. Ogni tanto arriva su PayPal $270 per royalties. Questi passano, ma di una roba che in Italia non esistono. Pensa che ci ha contattato un filmmaker americano che ha voluto usare uno dei nostri brani e ci ha detto: vi possono bastare $700 per l'utilizzo esclusivo di questo brano nel mio cortometraggio che devo far vedere eccetera? E gli ho detto: certo che sì, ma proprio di corsa. Poi siamo andati a sentire tre secondi di brano. In Italia è il contrario, ti chiama uno che sta facendo un cortometraggio: mi dai $700 che metto il tuo brano? Esatto. Ma noi siamo rimasti, gli americani sono... No, in realtà no, ti devo correggere, in Italia ti chiama uno che sta facendo un cortometraggio e ti dice: mi dai il tuo brano, e nessuno dà niente a nessuno. Anche, esatto. Sì. Esatto, tra l'altro. Anzi no, usa il tuo brano e poi ti dice... tu vai a dirgli: guarda che hai usato il mio brano, e allora? Ti ho fatto pubblicità. Dai, che vuoi? Vabbè. No, gli americani sono veramente molto precisi su sta cosa. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Torniamo un po' a quello che è sto fenomeno, che è quello che un po' è sicuramente quello che poi dopo, in cui ci sono entrato anch'io, perché d'altra parte, se volevi fare un disco e cercare di fare qualche soldo e di entrare in uno studio di registrazione, quella roba dovevi fare. E diciamo, l'Italo Disco è influenzato ovviamente dalla synth pop, e quindi quello che abbiamo sentito prima, Depeche Mode, che possiamo sempre classificarli come precursori di quello che è la musica che poi è diventata l'Italo Disco, insieme a tutti quegli altri che abbiamo sentito prima e molti altri nomi. In Italia, nei primi anni 80, possiamo ricordarci tipo P-Lion con Happy Children, tutti questi nomi curiosi, P-Lion che letto così è pilone, piuttosto che denaro, che sta per denaro, piuttosto che questo slang italo. Denaro sta per denaro, l'ho scoperto adesso. Sì, pensa un po'. E poi c'era... ce n'erano altri 5-6, c'era Joe Yellow. Albert One, che era Albertone, tutti questi domignoli della minchia che erano ridicoli, però attiravano in qualche modo noi boccaloni italiani, che te devo dire. Comunque, questo è un po' alla stregua degli attori italiani che prendevano i nomignoli insomma americani, no? Come nel film Porky's, quando facevano gli scherzi telefonici, che dicevano c'è Mike Hatz al telefono, Mike Hatz al telefono, cioè c'è un certo Mike Hatz, e la tizia altoparlante, Mike Hatz è atteso al telefono, Mike Hatz è atteso al telefono. Però se ci pensate, Mike Hatz vuol dire il mio cazzo all'italiana, era una battuta che magari hanno capito in tre, però forse in quel periodo la capivano tanti, perché andava molto di moda fare questi storpiamenti così alla dottor cazzo. Self Control di Raff, ve la ricordate? È uno dei, certo, dei pochi italiani che ha seguito questo filone molto dance, elettronico. E gli americani non credono che la Brannigan abbia fatto una cover, quando glielo dici, o come Gloria, rimangono sconvolti. Ma come? No, è l'italiano che ha copiato, ovviamente. Certo. Vabbè, per gli americani è sempre così, no? Su Raff potrei dire una piccolissima roba così di traverso. Allora, una cosa che non sapete, ma che vi dico ora, nel periodo anni 80, quando si sei tu Raff? No, cavolata, questa adesso vi racconto velocemente una cosa. C'erano molti discografici che facevano i dischi, che in realtà erano fondamentalmente dei grossi distributori, tipo il Discotto, che magari qualcuno di voi conosce, piuttosto che Lombardoni, piuttosto che Disco Magic, Many Record, Baby Record, Five Record. Tutti questi nomi in realtà erano tutti grossi distributori di dischi, importatori di dischi stranieri che poi vendevano in Italia, erano fondamentalmente quelli che servivano i negozi di dischi. E questi facevano loro le produzioni, quindi il Discotto selezionava degli autori, bella, brutta, facciamo il disco, e uscivano il disco con l'etichetta Discotto piuttosto che Disco Magic, piuttosto che Raff. Allora, scusate, mio fratello lavorava al Discotto, ed è grazie a lui che abbiamo fatto dei dischi, perché lavorava in uno di questi, e lui ci ha tirato dentro, facilitandoci molto il tutto, anche perché era un pezzo abbastanza grosso nel Discotto, e abbiamo fatto dei dischi grazie a lui. Poi dopo gli altri li abbiamo fatti attraverso un'altra etichetta che è la Many Record, però diciamo il Discotto è iniziata così, e il Discotto quindi selezionava questi personaggi, e quando è arrivato Raff, è arrivato al Discotto, gli ha detto no, questo qua non è una cagata, non venderà mai niente, è stato bypassato, e quando poi dopo ebbe successo che ebbe, lì al Discotto si sono magnati i coglioni. Il fratello diceva, penso che è venuto da noi e gli abbiamo detto di andare a cagare, che fa cagare la musica. E questo sta vendendo milioni di copie, perché se è un successo pazzesco. Ricordate sempre che c'è sta chi diceva: beh, ma io ce l'avevo il lavoro, cosa volevo andare a fare? Forse l'abbiamo capita in due, però. Secondo me anche in tre l'abbiamo capita. Dacci un cenno, Carlo, se l'hai capita. No. Non l'ha capita. Ma come non l'hai capita? Tu sei l'unico che la può capire ancora meglio di tutti. Basta che pensiamo a un'immagine in bianco e nero. Vabbè, a un uomo triste. Comunque, vabbè, dopo ti diciamo, Carlo. L'ho capito adesso, scusate. Sono arrivato. Okay. Poi dopo Roberto ti ragguagliamo. No. Quindi se esatto, Laura che quindi ebbe un grande successo questa canzone in Italia e poi anche all'estero, perché è stata coverizzata da Laura Barninga, come ha ricordato prima Roberto, e poi ebbe successo anche negli Stati Uniti, proprio in tutto il mondo, direi. Abbandoniamo Raff, perché vedo che qua si parla molto di Raff. Comunque New Romantic, giusto, l'Italo Disco è influenzata sia dal synth pop che dalla New Romantic, che New Romantic è roba principalmente inglese. Sto cercando di leggere qualcosa di utile. Arriva Righiera, che poi no, io arrivo che sì, insomma, poi non è che insomma, no, nell'81 Gary Lowe, Ronnie Jones, salutiamo Angela ed Elettrica Salsa in chat, che comunque Elettrica Salsa. Masterpiece di Gazebo, dai, Gazebo, quello ve lo ricordate, dai. Come no, Gazebo. Come no. E il nostro secondo disco lo registrammo nello studio dove registrava Gazebo. Gazebo, sì, sì, Festival Bar, oh. Certo. Ike Francis, pseudonimo di Francesco Puccioni, e gruppi come Baltimora con Tarzan Boy, che era Tarzan Boy, vabbè, qui potrei. Comunque, Like qua. Chopin, Gazebo, scusami. Non esatto, tanto. È Like Chopin, che quella, sì, sì, poi arriverà anche quella, mi sa. Io qua, in quel periodo di Baltimora, lavoravo in uno studio di registrazione come assistenza tecnica, facevo come secondo lavoro notturno. Cioè, di giorno lavoravo in negozi CKE, dalla sera in poi fino a notte lavoravo nello studio. Quindi, facevi i sordi. E questo studio ho conosciuto un sacco di gente e ho conosciuto un sacco di artisti. Le canzoni degli anni '80 iniziano dopo circa 3 minuti. Ci sono 3 minuti di pappardella e poi iniziano a cantare dopo 3 minuti. Cosa che per le radio moderne sarebbe impossibile, taglierebbero tutto. Usava, se non sbaglio, perché mixavi il disco prima con quello dopo, giusto? Esatto, quindi dovevi lasciare lungo per quello. Comunque nel disco c'era sempre la versione normale, poi c'era la radio edit. La radio edit era una versione più stringata, certo, dove partiva subito, perché sennò mica 3 minuti di batteria e di riff era un po' la menata. Curiosità di Baltimora. Baltimora era in quel periodo, in quello studio, c'erano un paio di famosi produttori. Uno era Fio Zanotti e l'altro Maurizio Bassi, che erano gli arrangiatori e i produttori, cioè facevano tutti i brani musicali dei cantanti che in quel momento erano molto famosi, tipo Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mannoia, Leali, Fausto Leali, eccetera. Erano loro due che pilotavano la cosa. Nel tempo perso, sia uno che l'altro, così per fare 4 sordi, facevano qualche canzoncina dance così. Tanto avevano tutti gli strumenti, lo studio pagato dalla casa discografica. Adesso qui, se qualcuno mi sente, anche qua, non è la SIAE, ma non so chi. Cioè, la tal casa discografica ti commissiona un album, tu lo fai in studio e ti dà un budget. Ci metti 10 giorni, un mese per farlo e tu devi fare l'album di Eros Ramazzotti. Però nel frattempo, se avanza del tempo e c'hai lì tutti gli strumenti, tutti i turnisti, tutti gli strumenti che magari normalmente non hai, perché non puoi averli tutti gli strumenti del mondo, ma ogni turnista si porta il suo. Ma facciamoci anche la canzoncina del Pifero, tipo Tarzan Boy, la paga la casa discografica, però la vendo col mio nome. E questa cosa succedeva spesso, cioè nel senso che loro facevano un album e intanto ci ficcavano dentro 2 o 3 brani così. Tanto ci mettevano davvero una serata, un pomeriggio a farla, questa musica. Tarzan Boy è nata in un pomeriggio ed è cantata da Maurizio Bassi e non è cantata da quello che è il frontman Jimmy McShane, che abbiamo visto in tutti i video, eccetera. Questo era semplicemente un figurante, perché comunque non era Maurizio Bassi, non era uno che si poteva presentare in TV e fare il pirla cantando Tarzan Boy vestito da Tarzan. Era un rispettabile arrangiatore che al Festival di Sanremo dirigeva con la bacchetta in mano, e quindi, sai, andare a fare il pirlotto in TV non era il suo. E di queste cose ne accadevano negli studi, dove si sfruttava il fatto che comunque lo studio era pagato dalla casa discografica e tu in qualche modo un po' ne approfittavi, ecco, no? E questo è uno dei casi, però questo ha avuto anche successo notevole con Woody Boogie e Tarzan Boy, i due brani con i quali hanno avuto più successo. Scotch, ve lo ricordate? Sì. Quello che iniziava tossendo. Sì. Pensa che per anni ho creduto che fosse un disco straniero, io quello lì. Poi dopo ho scoperto. C'era un pirlotto italiano. E... Ma sai perché ero convinto che fosse straniero quel disco? Perché io in quegli anni lì ho avuto l'ho già detto diverse volte, avevo la fortuna che i miei mi spedivano a fare la scuola estiva in Inghilterra, no? D'estate. Me lo ricordo in discoteca in Inghilterra, cioè in discoteca in Inghilterra mettevano non ti vedo in discoteca, io non ti vedo proprio in discoteca. ragazzi, vabbè, bisognava adattarsi. Cosa c'entra? Mica sono io adesso. Andavo anche in faceva delle cose sbagliate, ragazzi. Faceva delle cose sbagliate, tipo fare sport, che poi ho scoperto che faceva pochissimo, cose così. Quindi andavo anche in discoteca, che poi ho scoperto che era una roba pessima, anche quella dopo, però l'ho scoperto. E andando in discoteca in Inghilterra, nei club, come si chiamavano in Inghilterra all'epoca, sentivi questa canzone e quindi ero convintissimo che fosse inglese. Poi dopo anni ho scoperto che il scotch, la canzone che iniziava tossendo, era italiana invece. Questo per dire che comunque era un successo internazionale molto elevato. Sì, esatto. Perché? Perché anche questo fu un brano che ha sfruttato a mani e piedi l'opportunità tecnologica del momento. Cioè, non appena sono potuti uscire i primi campionatori, hanno cominciato a utilizzarli per fare dapprima le minchiate, poi più avanti sempre un utilizzo un po' più moderato. Ma sai quante volte senti cantare tutte frasi ripetute che non si potevano quasi sentire? Sì, che praticamente il campionatore ti offriva queste robe, oppure gli strappi orchestrali. Quelli che mi ricordo di più col campionatore sono stati gli Art of Noise, però era qualche anno dopo forse. E per Art of Noise facevano ricerca, facevano roba bella, a dire la verità. Cioè, lì erano degli artisti che stavano utilizzando lo strumento come lo utilizzerebbe un artista. Invece Scotch lo utilizzava proprio per fare la robaccia alla... mi viene in mente Salvi, che faceva queste canzoni. Francesco Salvi. Francesco Salvi, c'era lo Zio Pino. C'era spostare, sì, esatto. E poi in realtà quella era che ritmo tropical. E poi sono arrivati i Righeira, che invece furono una scoperta dei Gabbioni, che la Bionda già, cioè, erano famosi per, non dico questo tipo di musica, perché loro facevano comunque hanno fatto tantissima musica, sia disco che non, in tutti i film degli anni 70, di Bud Spencer, Terence Hill, tutta questa, con i pseudonimi vari di tutti i generi, però erano sempre loro alla fine. Loro erano veramente dei musicisti. I film di Bud Spencer e Terence Hill li facevano gli Oliver Onion, che c'entrano i fratelli di Angelis, no? Che erano i fratelli Le Angelis, che erano i La Bionda, e sono sempre loro. Sempre loro. Non sono sicuro di questa cosa. Li hanno prodotti i fratelli Le Angelis, in Righeira. I Righeira li hanno prodotti La Bionda. Adesso verifico. La Bionda. Scrivete, siete voi, no? Un gruppo musicale. La Bionda, Carmelo La Bionda e Michelangelo La Bionda, noti anche come nome artistico di D Sound, Disco Music, che te lo dico. No, però non c'entra niente quei film. Allora mi sbaglio, ma aspetta, che non sono così convinto. Amanda Lear, minchia, è vero, che Amanda Lear, non mi ricordavo più. Madonna, Amanda Lear. Poliziotto Super Più, Bud Spencer, Terence Hill. A partire dai primi anni 80, i fratelli La Bionda si concentrarono sulla composizione e produzione musicale e l'attività di tenere. Compongono solo le film di successo di Sergio Corbucci, Chi trova un nemico trova un tesoro, Tu per tu, Super Cops, quelli degli Oliver Onion erano gli anni 70, perché era Don Buggy di Altrimenti ci arrabbiamo. Sì, anche anni 80 però, Poi hanno fatto una brutta fine di Righeira. Sempre i 40 minuti di introduzione. Questa che è Vamos alla playa. Sì. Sì. Sempre quel 2 minuti così. Vamos alla playa. Scopri che in realtà parla di un futuro post-atomico con le bombe nucleari, che la Terra è distrutta, esatto, e sulla spiaggia radioattiva, loro vanno alla spiaggia radioattiva. È proprio così divertente il testo della canzone. Vero. Comunque confermo il mio errore, tra virgolette, nel senso che hanno fatto poi comunque molte colonne sonore di film di Bud Spencer e Terence Hill, ma non quelle più famose che noi conosciamo degli Oliver Onions. Erano gli Oliver Onions, proprio. E vabbè, hanno fatto una grande storia. Tra l'altro, prima del Covid, fecero un bellissimo concerto d'addio, cioè una sorta di dei revival, ed era strapieno, ragazzi, era strapieno, cioè è stata una cosa. Si racconta di gente che piange proprio, quindi insomma. Vero. Ma voi sapete che sia Bud Spencer e Terence Hill che gli Oliver Onion, sembra incredibile, hanno ancora più successo di quello che hanno in Italia in Germania. Addirittura in Germania c'è un museo di Bud Spencer e un museo di Terence Hill. C'è un museo di Bud Spencer a Berlino con la statua in grandezza naturale, cose assolutamente folli. Ricordo che a parte che recentemente qualcuno ha postato un video, forse Carlo, di Terence Hill che parla tranquillamente in tedesco. E devo dire che ho visto anche un'intervista dove c'era Bud Spencer e anche Bud Spencer spiccicava qualche parola in tedesco, devo dire. Bud Spencer no, aveva il traduttore, cioè aveva quello che lo traduceva. Terence Hill parla tedesco perché la mamma è tedesca. La mamma è tedesca. Esatto. E poi parliamo di Alan Parsons, vai, che sono mitici. Sì, vabbè, nell'82 Alan Parsons, che sono nati negli anni 70, però che hanno collaborato in precedenza con i Beatles e Pink Floyd, pubblicando Eye in the Sky, che penso tutti noi conosciamo e che aveva avuto un successo notevole, e lì i sintetizzatori e campionatori. Ecco qua parliamo del Firelight CMI, che è un sintetizzatore, è un campionatore, è stato uno dei primissimi sintetizzatori e campionatori che si poteva suonare, nel senso che i campionatori fino a un certo periodo, parliamo negli anni 82-83, erano degli scatolotti che tu registravi un suono e schiacciando un bottone lo riproduceva. Quindi era una sorta di registratore digitale che suonava questo robo così. Successivamente poi i campionatori hanno avuto una tastiera e tu campionavi un suono e lo suonavi sulla tastiera, quindi facevi il suono del cane, che cacchio ne so, e da lì nacque poi la canzone, quella del cane, che adesso non ricordo il titolo, stupidissima. Scusa Davide, visto che è il primo aprile, ma manca uno di noi quattro? Sì, attualmente sì, perché aveva una necessità. Ah, ok. Scusa, continuiamo. È andato in bagno. Era giusto pubblicizzare questa cosa a tutto il mondo, va bene. Comunque Firelight, che è nato era tastiera campionatore che andava con i floppy da 8 pollici. Volevo, era una comunicazione di servizio. Sto registrando con mezzi di emergenza, però purtroppo ho commesso un errore. Come vedete, a volte questo, oggi è stata una giornata un po' strana, devo dire la verità. E quindi la memoria di registrazione è finita. Sto registrando con un sistema alternativo, che però non è una soluzione. Siccome che vedo che qui c'è ancora tanta roba, possiamo provare a dividere la puntata in due parti e ritornarci? Sì. Perché anche sennò non so come risolvere il problema in questo momento. Mi dispiacerebbe perdere quello che stiamo facendo, insomma, ovviamente. Non riesci a piazzare un altro SD? No, non ce l'hai. No, non ce l'ho adesso a volo un altro SD. Cioè, non saprei proprio dove andarlo a cercare. E poi, tra l'altro, è complicato adesso in questo momento. Ma veramente avrei dovuto, siccome che tutta la roba che sta nella SD è già roba utilizzata, avrei dovuto solo aprirla. Allora... Propongo di fare questa cosa qua. Adesso in realtà stavamo rapidamente, secondo me, citando un po' di nomi e stavamo andando verso la fine degli anni 80 e arrivavamo in zona conclusione, no, se vogliamo. Okay. E in realtà però poi dopo c'è un'altra parte che secondo me fa parte sempre di quello che è la musica degli anni 80, che sono i videoclip, e di cui vabbè magari non c'era molto da parlare, però volendo magari ci sopra qualcosa, sì, esatto. Se qualcuno di voi ha qualche contributo più interessante si potrebbe mettere dentro per il prossimo episodio, concludere la parte insomma della musica elettronica aggiungendo qualche ulteriore nota così, e poi magari si può parlare un po' di videoclip e cominciare a parlare anche magari pochino di qualcosa di televisione relativo alla musica, ecco, detto così. Infatti il discorso dei videoclip invece è un capitolo bello importante, diciamo, perché si collega a tutta un'altra serie di fenomeni che hanno portato poi alla musica sempre più popolare, no? Da un certo punto di vista, la diffusione di alcuni canali, la connessione tra radio e televisione, e diciamo che il videoclip ha portato più penetrazione proprio nel mondo della musica a livello giovanile. Perché? Perché poi dopo si è fatto molto leva anche sull'estetica, sul quanto è buono quello e via dicendo, insomma. Certo. Però c'è proprio tutto un mondo dietro al fatto dei videoclip che meriterebbero appunto anche quello una bella puntata. L'approfondimento. Quindi, io farei così, inizierei con il prossimo, non so quando, anche se sarà il prossimo, non lo so, vediamo. Concludere questa parte che ormai era in zona conclusiva per introdurre, esatto, il fatto che comunque tutti questi artisti poi vivevano, esistevano solo se avevano anche la controparte video, se no non esistevano. E quindi è diventato poi una cosa obbligatoria, cioè il cantante di successo degli anni, del fine anni 80 o metà anni 80, se non appariva quando produceva un disco doveva anche produrre il video per essere per avere più i video delle musiche, per te. Esatto. Prendiamo l'esempio degli Art of Noise, dove hanno fatto Paranoimia, che praticamente sembra cantata da Max Headroom. Esatto. Paranoimia. E grazie a quello hanno grande fatto, Max Headroom, fatto brani veramente belli, Max tipo Headroom, che per anni si è creduto che fosse grafica 3D vera e poi si è scoperto che era finto. Vabbè, erano cretini quelli che pensavano che fosse grafica 3D. No, ma guarda che c'erano tanti che pensavano fosse perché erano tanti cretini. Ma no, è arrivato lui, è arrivato. Dai, io ero un ragazzino, lo capivo che era una persona, cioè, vedi. Sì, era una persona trattata digitalmente perché c'erano già i primi strumenti digitali che possono fare niente. Freeze frame. No, non c'era nessuno strumento era digitale, era proprio ripresa pure e basta. Tipo vabbè, c'era un freeze frame, frizzavano il frame e lo facevano andare a scatto. Col videoregistratore, col pause, ce lo facevano. Vabbè ragazzi, ma non è che durante l'era dell'analogico non esisteva il montaggio, cioè, nel senso, c'era anche le memorie. Tutto quello che facevi nel digitale lo facevi anche nell'analogico. Era uno pesantemente truccato con della roba luccicante addosso, però fatto davvero bene, sembrava digitale. Così come, ripeto, Automan. Automan, infatti, ha fallito a casa di produzione. Insomma, sì, aveva il vestito verde, poi gli facevano la texture strana sotto. Io me lo ricordo per un demo dell'Amiga Paranoia. Bellissimo, esatto. C'era un mega demo con quella musica lì che io non sapevo neanche chi fossero gli Art of Noise. In realtà, ho scoperto dopo quel demo. Io prima vedevo sto demo e dicevo: senti che musica strana. Con questo, c'era quello del gatto, mi pare. Era il gatto che ruotava. Camminava mentre ruotava e rimanevo a bocca aperta a vedere sta roba qua. Uno dei miei gruppi preferiti dell'epoca, quindi. C'era, come si chiamava? Trevor Horn, no? Mi sfugge adesso. Of Noise, sì. Comunque erano inglesi, come quasi sempre, tutte queste cose belle sono quasi sempre inglesi. Va bene, dai, allora ragazzi, direi che... Sì, dai, allora ragazzi, come ho detto, probabilmente anche chi ci sta ascoltando in podcast si sarà reso conto che c'è uno stacco, insomma, di qualità tra la prima parte e questa piccola seconda parte, dove purtroppo ho dovuto implementare dei sistemi di registrazione, sperando poi, tra l'altro, che la registrazione di Skype vada a buon fine, ci metterà un pochino quella, vabbè, prima adesso scaricata, perché purtroppo ho commesso un errore, quindi questa è una cosa che ogni tanto succede, è successa questa sera in questo giorno che era un po' strano, infatti sono arrivato troppo a ridosso della diretta senza aver preparato tutti gli assets, tutte le cose, quindi mi scuso per questo, mi scuso soprattutto con Roberto, Davide e Carlo, che insomma però possiamo dividere tranquillamente la puntata in due parti e ritornarci insomma con la prossima puntata e chiudere magari quello che c'era da dire sulla musica elettronica e parlare anche dei videoclip, che è una cosa interessante. Guarda che mica te la scampi, no, la prossima puntata la devi proporre tu. Io ce l'ho la prossima puntata, allora quindi vogliamo saltare alla prossima puntata che tocca a Davide. Se c'è qualcosa da dire la diciamo nella prossima, poi inizia la tua, no? Beh, no. Allora, sono cattivo. No, possiamo finirla e poi possiamo finirla e iniziarla, però allora non dobbiamo parlare di videoclip perché li teniamo per un'altra occasione al limite, perché effettivamente sui videoclip dai, ragazzi, intanto salutiamo perché sennò rischiamo di fare casino qua con questa puntata, purtroppo è andata un po' così, che comunque è interessante, ho visto che poi è piaciuta molto e sta piacendo molto, c'è una certa partecipazione, anzi poi vedo che in realtà è un tema che la gente conosce, pensavo molto di meno, devo dire la verità, invece poi alla fine comunque c'è questo interesse. Allora ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo con la puntata. Adesso diciamo, in teoria la puntata che che dovrei portare io, se no finiamo questa puntata. Adesso lo decidiamo, insomma, non è un problema. Lo decidete voi, pubblico. No, no, ma per me è esatto. Che cosa volete? Esatto. Ci dite voi. Scriveteci nei commenti. Simone, mi fa piacere. Voglio comunicare che abbiamo avuto la prima recensione su iTunes con 5 stelle, e però non trovo il testo perché me l'avete cancellato dal documento. Non so io. Che fino a fare. Che cazzo l'ha cancellato? Scusa. No, oh, che ne so, qualcuno ha detto me l'avete, non ho detto Carlo l'ha cancellato. No, non è stato Carlo sicuramente. Sono sicuramente chiaro. Io non mi ricordo, però va bene. Detto questo, finisco, dico l'ultima cosa, che ancora pare che questa sera ci siano stati dei problemi di stream. In realtà io non so che tipo di problemi, da una settimana, quasi due settimane a questa parte, il server di Azzurracast sta avendo. Ho aperto un ticket, mi risponderanno sicuramente. Vabbè, dai, intanto sabato, domenica mettiamo sul nostro, dai. Sì, vabbè, ma non credo che lo mettiamo su due giorni, insomma, comunque. Sì, invece, sì. Vabbè, ok. Comunque, nel frattempo bestemmieremo, perché noi comunque questo servizio lo stiamo a pagare, e sarebbe carino che la gente non avesse queste difficoltà, insomma. Detto questo, io vi invito sempre ad andare su runtimeradio.it, nella scheda anche io, e partecipare, insomma, se volete, con un una tantum, fare una donazione su PayPal, oppure partecipare al Patreon e contribuire, come fanno già in tanti, per dare una mano ovviamente a questo progetto, che ovviamente sembra gratis ma in realtà non lo è, perché tra spese tecniche, spese appunto di hosting, servizi vari, ma alla fine comunque Il mio stipendio, poi mettere e poi lo stipendio di Carlo Sant'Agostino, che è quello che purtroppo grava per il 70% di tutto quanto il costo di Runtime Radio. Dobbiamo anche dargli da mangiare, la carbonara, deve comprare le uova per fare la carbonata, tra l'altro carbonara cotta, uova cotte. Esatto, la frittata di pasta facciamo noi. Comunque il 4 è la Carbonara Day, quindi ricordatevelo, comprate tutti guanciale e uova e fate del vostro meglio per quello che sapete fare. Detto questo, ragazzi, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in chat, ringrazio caro Sant'Agostino. Grazie a te e grazie a tutti e grazie agli ascoltatori. Ringrazio Davide Gatti, del quale sentiremo il brano alla prossima puntata, a questo punto. Certo, sì. Grazie a tutti, ce la sentiamo al prossimo giro. Se beccamo, come dicono quelli che sanno, e ringrazio anche Roberto Domaiuolo. Ciao a tutti e buona serata. Roberto, godi di questi giorni italiani. E buona Pasqua, ragazzi, buona Pasqua. E buona Pasqua a tutti, hai ragione. Vabbè, noi ci facciamo poco caso a queste cose. Colomba e uova di cioccolato, vai. Così. Ciao, grazie a tutti, ciao. Vi lascio col brano della settimana e intanto io vado a salutare i nostri amici. Ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao amici di Runtime Radio, noi siamo gli Zoot e siamo una band marchigiana nata nel 2014. Il nostro suono è caratterizzato da influenze indie rock e pop elettronico e i nostri testi si ispirano alla canzone d'autore italiana. Nel 2015 è stato pubblicato il nostro primo disco dal titolo Oceano ed esattamente 4 anni dopo, nel 2019, è uscito il secondo album che prende il titolo dalla canzone che state per ascoltare, ovvero La Cosmonautica. Potete trovarci su tutti i social sotto Zoot Official, ZUTH, e su tutte le piattaforme per ascoltarci. Ciao a tutti, buon ascolto! Prometti di